GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Coldiretti celebra oggi la 73esima giornata del ringraziamento agricolo a Gemona del Friuli, un'occasione per fare il punto sulla situazione del comparto in regione. Ricorre oggi il 20° anniversario dell'attentato di Nassiriya in Iraq, in cui persero la vita 28 militari, di cui 19 italiani, tra essi Ivan Ghitti, Andrea Filippa e Daniele Ghione, carabinieri del 13° reggimento Friuli Venezia Giulia di stanza a Gorizia, ricordati dal sindaco della città, Ziberna. Il Bioma apre le porte con ingresso gratuito nel 37° anniversario della nascita dell'area marina protetta di Miramare, la prima a essere istituita nel 1986, insieme a quella di Ustica. Calcio: l'Udinese scende in campo contro l'Atalanta per dare continuità al successo di San Siro contro il Milan. Per l'allenatore Cioffi servono umiltà e fame di vittoria. Basket: in A2 torna alla vittoria l'Upworld Wild West. Udine si è imposta agevolmente al Palacarnera contro Orzi Nuovi e stasera è in programma un nuovo derby regionale con la sfida tra Trieste e Cividale. Le 12:16, buongiorno e buona domenica da Giorgio Beyerz e da Lara Zani per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di domenica 12 novembre. In apertura il mondo del lavoro e della produzione agricola, infatti anche Coldiretti Udine celebra oggi la 73esima giornata del ringraziamento agricolo nel Duomo Santa Maria Assunta di Gemona del Friuli, una messa e soprattutto un'occasione per fare il punto sulla situazione del comparto in regione. Tra le vie del centro storico di Gemona, mercatini, laboratori artigiani, il meglio della produzione lattiero-casearia, trattori da benedire e messe in Duomo. La celebrazione del formaggio si intreccia con la 73esima giornata del ringraziamento Coldiretti. Un momento di incontro, fede e riflessione anche per fare qualche ragionamento e capire com'è andata l'annata agricola, indica Cesare Magalini, direttore regionale di Coldiretti. E com'è andata lo spiega il presidente provinciale di Udine, Cristiano Melchior. Un'annata anomala, partita con la siccità, poi le piogge che hanno consentito le semine, le grandinate, con una stima iniziale dei danni di 400 milioni, cifra rivista a ribasso nelle settimane successive. Perdite segnalate nella raccolta dell'uva con qualità inferiore rispetto al 2022. Il continuo variare dei prezzi, non accennano a diminuire le quotazioni dei cereali, non aiuta un comparto che ha bisogno di stabilità, aggiunge Melchior. Sono giorni di trattative nazionali sul prezzo del latte, ancora in ribasso dopo i leggeri aumenti di fine 2022. Se le stalle sono in crisi e si riduce il numero delle mucche, a risentirne sono anche i prezzi dei foraggi in stagnazione. Gemona del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi, 12 novembre, ricorre il 20° anniversario dell'attentato di Nassiriya in Iraq, in cui persero la vita 28 militari, di cui 19 italiani. Tra essi Ivan Ghitti, Andrea Filippa e Daniele Ghione, carabinieri del 13° reggimento del Friuli Venezia Giulia di stanza a Gorizia. Si trattò del più grave attentato subito dall'esercito italiano dalla fine del secondo conflitto mondiale. Per l'occasione il sindaco di Gorizia, Ziberna, ha voluto rivolgere alle famiglie delle vittime, alle donne e agli uomini del 13° reggimento e dell'arma dei carabinieri il pensiero commosso e grato della città. E si celebra oggi anche il 37° anniversario della nascita dell'area marina protetta di Miramare, la prima a essere istituita nel 1986 insieme a quella di Ustica. Per tutta la giornata di oggi il Bioma apre le porte con ingresso gratuito, inoltre al mattino e al pomeriggio attività per i bambini. Esattamente il 12 novembre di 37 anni fa fu fondata la riserva marina di Miramare assieme a quella di Ustica. Furono le prime due aree marine protette in Italia, un evento che l'area di Miramare sta festeggiando con diversi eventi durante tutto il 2023. Oggi in particolare è aperto gratuitamente il Bioma con una sessione di nati per leggere la mattina e poi una sessione di yoga per i bambini alle 14. Ma c'è stata anche la visita gratuita di bird watching lungo il sentiero Rilke assieme all'ornitologo Paolo Utmar, che indicava gli esemplari del falco pellegrino, i marangoni dal ciuffo e anche gli edredoni. Proprio gli edredoni trovano sulle falesie di Duino uno dei due posti di nidificazione sul Mediterraneo. Duino, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E diamo uno sguardo al tempo, cielo nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 13 gradi, a Udine e Gorizia 10 gradi, a Pordenone 9 gradi e mezzo, a Tolmezzo 4 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 4 gradi, a Tarvisio 3 gradi e mezzo, a Piancavallo 3 gradi, A Sappada 0 gradi, sul Monte Lussari e Monte Zoncolan 0 gradi, a Lignano 11 gradi, a Grado 10 gradi. Le previsioni dell'ARPA: nel pomeriggio cielo variabile o temporaneamente nuvoloso, nelle ore centrali non è esclusa localmente la possibilità di qualche breve debole pioggia su Costa, Carso, Isontino, possibile qualche nebbia notturna in pianura e nelle valli, venti in genere deboli. Domani cielo da poco nuvoloso a variabile, possibili locali nebbie notturne in pianura, inversione termica in montagna. E ora lo sport con il calcio. La Serie A di calcio torna in regione con l'Udinese, che oggi alle 15 cercherà di dare continuità al successo di San Siro con il Milan affrontando l'Atalanta. Servono umiltà e fame di vittoria, ha detto l'allenatore dell'Udinese Cioffi nelle dichiarazioni della vigilia. Basket: in A2 dopo il derby perso contro Trieste torna la vittoria l'APU Allwell West Udine, che ieri sera si è imposta agevolmente al Palacarnera per 82-61 contro Orzi Nuovi davanti a una splendida cornice di pubblico, e stasera è in programma un nuovo derby regionale, la sfida tra Trieste e Cividale alle 18 al Palarubini. Seppur contro la neopromossa rialzarsi non era scontato, l'Allwell West dimentica gli ultimi due minuti di derby con una facile vittoria contro Orzi Nuovi, che resiste un quarto, cioè fino a quando la difesa friulana è ancora in orario d'aperitivo e concede spazi a Zuni e Donzelli per buone soluzioni dall'arco. Poi, quando si comincia a fare sul serio, Udine recupera palloni e corre. La sveglia la suonano Clark, Carotti e Daros con la tabellina del 3. Mayfield riavvicina ancora una volta gli ospiti, ma è l'ultima. Clark, Gaspardo e Monaldi mettono altre bombe. Nel solo secondo periodo sono ben 9 per un parziale di 33-16 che indirizza il resto dell'incontro. Poco da raccontare della ripresa, con i modesti avversari che scivolano fino a meno 27 perché Vertemati ottiene concentrazione massima da tutti. 82-61 il finale, miglior marcatore Clark. Ancora fatica per Delia, che tira e segna una sola volta. E dal suo coinvolgimento che passano i sogni dell'APU. Mercoledì sfida il Carnera alla capolista Fortitudo. Al Palatrieste nuovo derby stasera, ultimo del girone di andata. Alle 18 i biancorossi vogliono non perdere il treno delle prime. Di fronte però c'è una Cividale in crescita. Potrà contare sui soliti redivoniani e su qualche minuto del nuovo americano, la guardia Cole, oltre che sull'effetto marea gialla. 400 tifosi per una gita fuori porta da ricordare. Trieste al completo può mettere i crisi in Ducali con fisico e centimetri. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Scarpette rosse sul campo del Palazzimolo di Gradisca di Sonzo. È iniziato infatti il campionato regionale di basket femminile dell'Unione Nazionale Sport per Tutti, che ha voluto intitolare la prima giornata di gioco Basket Day, dedicandola alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Sono scese sul parquet 6 delle 8 squadre iscritte al campionato. Al termine della fase regionale, le prime due classificate accederanno alle finali nazionali. Nello scorso campionato Gorizia ha ottenuto il secondo posto assoluto, mentre la barcolana Trieste ha vinto la Coppa Italia. Judo: medaglia d'argento per Rachele Moruzzi nella prima giornata dell'European Cup a Ghior. Nelle 44 kg l'atleta pordenonese ha guadagnato la finale, eliminando prima la rumena Denisha Serban, sanzionata 3 volte, quindi per Ippon la polacca Natasha Potok, mentre la slovacca Patricia Tomankova, campionessa d'Europa e del mondo 2023 nei 40 kg, ha avuto la meglio nell'incontro conclusivo, che ha lasciato Moruzzi al secondo posto per la sua quarta medaglia in European Cup. Passiamo agli appuntamenti. Due musiciste made in Friuli Venezia Giulia, rapidamente diventate eccellenze internazionali del loro strumento, saranno protagoniste della seconda tappa del cartellone Corde in Armonia, la nuova rassegna promossa da Chamber Music Trieste al Museo Sartorio nelle domeniche del mese di novembre. 94 corde nel mondo è il titolo del concerto che vedrà protagonista il duo d'arpe formato dalla triestina Alida Fabris e dalla friulana Silvia Podrecca. Appuntamento alle 17 al Museo Sartorio. Silvia Podrecca ci ha raccontato com'è nata la passione per uno strumento così particolare. Personalmente un po' per caso, perché non l'avevo mai vista né sentita, quindi è un po' un mistero. Invece la mia collega si ricorda proprio in maniera definita che aveva ascoltato il timbro dell'arpa, quindi un glissando, un arpeggio, così essere innamorata di questo suono. E credo che sia questa la peculiarità un po' dello strumento, oltre ad essere bello esteticamente, che fa sempre un bel effetto proprio così visivo, è anche molto particolare il suono. E invece questo duo come nasce? Questo duo nasce quasi casualmente, perché sia io che Alida abbiamo studiato, ci siamo diplomate al Conservatorio di Udine, però poi abbiamo preso strade geograficamente diverse. Lei si è perfezionata a Bruxelles, in Svezia, e poi ha lavorato in Cile, io invece sono passata dalla Germania per l'Ungheria, eccetera. Però ci siamo ritrovate proprio l'anno scorso entrambe a Roma. Lei perché è diventata prima arpa della banda della Polizia di Stato, io sono diventata primarta dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, quindi ci siamo un po' ritrovate dopo quasi 10 anni. Così è nata l'idea di approfittare di questa amicizia di lunga data e di suonare insieme di nuovo. E cosa suonate insieme? Il programma prevederà arrangiamenti da compositori quali Respighi, Debussy, Bartok, Handel, quindi trascrizioni per due arpe, ma anche brani originali scritti per duo d'arpe oppure per arpa di compositori arpisti del Novecento, quindi un programma un po' più sconosciuto. Ancora due appuntamenti prima di chiudere, torna a Piccoli Palchi, rassegna teatrale per il pubblico delle famiglie curato dall'Erte. Il primo sipario ad aprirsi sarà quello del Teatro Verdi di Muggia, dove alle 17 andrà in scena Il Seme Magico, spettacolo di teatro di figura e narrazione con canzoni e musica dal vivo, dedicato ai bimbi dai 4 anni. Nella Chiesa Luterana di Largo Panfili, terza delle 5 meditazioni d'organo di altissimo livello del Festival Organistico Internazionale, dedicate a Johann Sebastian Bach, organizzate dalla Comunità Luterana di Trieste. Alle 17, protagonista l'organista tedesco Matthias Dreisig. Ed è tutto per questo appuntamento con il Giornale Radio, che è stato redatto e curato e condotto da Lara Zani e Giorgio Beerz, collaborazione tecnica di Carlo Morello, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il Giornale Radio alle 18.30, a tutti l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.